Yani Ati Yagali Utado Luzulu Nenge Singa Bishije Jibinda Sikaru Nesatika Gire Nenesatika Sia Siniaza Yagale Nusaya Bindania Niko poli tuti sirabina Seda kaskuidi de giraru nibia Niko poli tuti sirabina Inisti gigi seda nero nibia Ingadilla niriaba nanana Nerindete ninisa bizaloa La chiduari nirakata banda Paso amigo a ninkeña napanoa Sinaka Ora no vini nazaka hasta les amigo un ganapaka di casi ora mawara Navia chukawara ya tu visa ni to vika ni rijaga que peñeda gizakana Keruni naraveni natirato Tigirato vini viato, nico pulli di gusà. Gianna di giaringa unibe, gianna fa amico stive. Singa in aria.